Buonasera, benvenute a tutte e tutti. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa, 87,9 in modulazione di frequenza, entropia massima antropologica. Oggi è il 30 giugno, ma questa puntata è stata registrata la scorsa settimana a Parigi, proprio il 5 giugno, perché, come avevo già avuto modo di condividere con voi, antropologica quest'anno trasmette da Oltralpe. L'antropologia che incontriamo in questa trasmissione continua ad occuparsi della salute mentale delle persone migranti in Francia, soprattutto questa volta di famiglie e di adolescenti che provengono da altre latitudini. Eccezionali ospiti, ma davvero eccezionali, sono Marie-Caroline Sagliot e Thierry Bobet, che incontro presso il servizio di psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, della psichiatria generale e delle dipendenze dell'ospedale di Avicenne, che si trova nella periferia nord di Parigi, una delle cosiddette banlieue, si chiama la Seine-Saint-Denis. E oggi siamo anche qui con Lucia Gentile, antropologa che abbiamo già accolto in trasmissione e che oggi, proprio in via del tutto eccezionale, ci sostiene con la traduzione dal francese all'italiano e viceversa. Ora, Thierry Bobet è uno psichiatra, è tra i fondatori della psichiatria transculturale in Francia. Oggi a capo del servizio dove appunto ci incontriamo, quindi il servizio di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, della psichiatria generale e delle dipendenze dell'ospedale di Avicenne, ed è il primo scienziato non antropologo che invito in trasmissione. Ho deciso di farlo perché l'antropologia è una disciplina a lui veramente molto prossima e perché, grazie alla lente dell'antropologia, ha costruito, non solo ovviamente, ma anche attraverso la lente dell'antropologia, ha costruito dei dispositivi di salute mentale in grado di accogliere delle sofferenze che sono, diciamo, proprio costruite, edificate e anche rappresentate attraverso altre lingue, attraverso altri significati. Si tratta proprio di sofferenze che sono radicate nella storia, anche nella storia coloniale, nella geopolitica, così come nella cultura, nelle società delle persone che emigrano in Francia. Marie-Caroline Sagliot è antropologa, è psicologa clinica nell'ospedale di Avicenne, anche lei presso lo stesso dipartimento di Thierry Bobet, e con lui condivide l'impegno per la ricerca continua delle strategie di cura nei confronti di persone migranti ed esiliate. È direttrice dell'Istituto Convergence Migration, è professoressa di antropologia presso l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, anche l'INALCO, dove è impegnata profondamente nell'analisi sempre critica della traduzione culturale dei differenti idiomi della salute e della malattia. Li ascoltiamo in voce tra poco, ma ora sigla. Benvenuti a tutti e a tutti, compagne e compagni all'ascolto. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87,9 in modulazione di frequenza. Come vi ho detto prima della pausa musicale, continuiamo il nostro lavoro, continuiamo a riflettere intorno alla salute mentale e alla migrazione, e oggi lo facciamo con due invitati speciali, un'invitata e un invitato in effetti, e in più anche di nuovo con Lucia Gentile, un'antropologa che abbiamo avuto ospite lo scorso mese in trasmissione. Quindi cominciamo a salutare Marie-Caroline Sagliot, Ciao Marie Caroline, Ciao. bienvenue. Grazie di aver accettato di partecipare alla nostra trasmissione. E, il secondo invitato è Thierry Bobet. Ciao Thierry, e Ciao. grazie di essere qui con noi. E qui si ride perché ovviamente ci cominciamo a chiedere come tradurre. Allora, la prima domanda un po' di rito che pongo sia a Marie Caroline sia a Thierry, e quindi chiedo a Lucia di farci da interprete, da traduttrice, da lingua, quindi come dire, proprio è la nostra, oggi è il nostro passepartout perché ci aiuta, come ci ricordiamo, Lucia è antropologa, quindi ci può aiutare anche non soltanto con i codici linguistici, ma anche semantici di quello che verrà veicolato oggi. E la domanda di rito è un po' quella di aiutarci a contestualizzare il dipartimento in cui ci troviamo, perché non è un dipartimento qualsiasi. Ricordiamo che siamo a Parigi, Antropologica quest'anno è in diretta da Parigi, è un dipartimento di salute mentale, ma dicevo, storicamente siamo in un luogo dove veramente sono nati degli approcci che ancora oggi segnano la nostra disciplina. Parliamo dell'antropologia, parliamo di un'antropologia che si è occupata e si occupa di salute mentale. Quindi forse vi chiederei un po' di aiutarci a contestualizzare prima di tutto il luogo e poi entrare un pochino meglio nei ruoli. Che cosa fate in questo dipartimento? E quindi lascio un po' la parola a Lucia. Prima di tutto, buongiorno a tutti. Ciao. Andrò quindi prima a tradurre direttamente la domanda. Sì, grazie. Donc, la première question, c'est qui vous pose donc Myriam, c'est d'aider à contextualiser donc les départements où nous sommes actuellement aujourd'hui. C'est un département de santé mentale qui était historiquement très important, où en fait beaucoup de différentes approches sont nées depuis ici et qui ont donc signé, qui ont un grand impact sur cette discipline d'anthropologie de la santé ou anthropologie médicale. Donc, si vous pouvez nous aider à contextualiser d'abord le lieu. Et après de rentrer un peu plus dans les rôles, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. Alors, nous sommes ici dans le service de psychiatrie de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Cet hôpital déjà a une histoire particulière, puisqu'il a une histoire par rapport aux communautés maghrébines d'Île-de-France. C'était l'hôpital obligatoire pour les Maghrébins au moment de sa construction, dans les années 30-40, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un hôpital où à la fois ils étaient invités et même obligés d'être regroupés, où ils étaient soignés, où on leur fournissait un cadre qui reprenait quelques éléments de décor architectural, etc., mauresque, mais surtout où ils étaient surveillés par un bureau de la préfecture. Donc il y avait cet étrange début de l'hôpital Avicenne. Ensuite, il a été repris par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc c'est devenu un hôpital tout à fait standard. Mais jusqu'à il y a très peu de temps, il a gardé un cimetière musulman qui faisait partie de l'hôpital, qui a été détaché de l'hôpital il y a peu de temps. Donc il y a une histoire dès l'origine de cet hôpital avec la question des migrations et notamment des migrations maghrébines en France. Je peux peut-être traduire jusque-là, merci. Allora, quindi è Thierry Bobet che ha preso la parola, che dice che attualmente siamo nel Dipartimento di Psichiatria all'ospedale di Avicenne a Bobigny, che quindi si trova diciamo a nord di Parigi, per situarlo, e che storicamente quindi è molto particolare perché raggruppa storicamente la comunità maghrebina dell'Île-de-France, che erano fin dagli inizi della costruzione di questo ospedale, che dovrebbe essere negli anni 30-40, era obbligata quindi a essere presa in cura qui in questo ospedale. E anche la struttura stessa, l'architettura di questo ospedale era segnata da un decoro, da un'architettura moresca, che quindi riprendeva anche questo legame con questa comunità. Ti interrompo un attimo, sì, infatti Avicenna ha un portale Sì, moresco meraviglioso, tra l'altro, molto bellissimo, bello. e c'è scritto all'entrata Ospedale Franco-Musulmano. En français, hôpital franco-musulman, Ouais. et en arabe, hôpital musulman. Ah, ok. Magnifico. Marie-Caroline dice che in francese c'è scritto fuori, quindi ospedale franco-musulmano, invece in arabo c'è scritto ospedale musulmano. L'escrittura. Grazie per questa puntualizzazione, perché è importantissima e veramente ci dà la possibilità anche di capire ancora di più quella sorveglianza. Non so se ci sia, infatti, se è già arrivata. Scusami, non sto anticipando i tempi, mi taccio. Quindi, no, è che la cosa appunto strana che sottolinea quindi Thierry Bobet è che in questo ospedale era sorvegliato da questo quindi bureau della prefettura, quindi di questo ufficio della prefettura che era presente nell'ospedale, e ora è stato ripreso, quindi fa parte un ospedale diciamo pubblico classico, quindi non ha più questo diciamo istituto di cura, cioè. L'ultima cosa, ecco, da aggiungere è che fino a poco tempo fa c'era un cimitero musulmano all'interno che era proprio all'interno dell'ospedale, che adesso invece è stato, non fa più parte della cinta dell'ospedale. Stato fuori. Sì, non, certo. Non è che è stato spostato, sì, sì. Che non fa più parte dell'interno dell'ospedale. E quindi questo ci permette di ritornare alla questione del grande legame tra la migrazione e salute mentale, quindi certo. Che è chiave in questo ospedale. Et l'hôpital est entré ensuite, est devenu un hôpital de l'assistance publique classique, comme sortant de... Voilà. Comme les autres. Sì, quindi Marie-Caroline sottolinea che attualmente, oggi, l'ospedale è un ospedale pubblico, classico, dell'assistenza pubblica. Voilà. Okay. Mais les gens qui parlent arabe voient toujours écrit « hôpital musulman » sur le fronton de l'hôpital. E Thierry Bobet sottolinea che le persone quindi che parlano arabo continuano però a vedere questa scritta in arabo, che c'è, certo. Dove c'è ancora scritto ospedale musulmano. Alors à l'époque ici c'était la campagne dans les années 30. Depuis la situation a bien changé. C'est une zone très très urbanisée aujourd'hui, dans un des départements qui est les plus pauvres d'Île-de-France. Les plus peuplés, notamment pour la population de jeunes de 0-18 ans, et avec beaucoup de populations migrantes, et notamment beaucoup, beaucoup de primo-arrivants. C'est-à-dire qu'il y a en Seine-Saint-Denis beaucoup de primo-arrivants qui, après, une fois qu'ils sont stabilisés, vont éventuellement s'installer ailleurs. Mais donc, on voit arriver tous les flux d'étrangers qui arrivent en France. Au gré des conflits et des crises partout dans le monde. Quindi Thierry Bobet ci ricorda che al tempo della costruzione di questo ospedale qui attorno c'era campagna, oggi invece è una zona molto urbanizzata che fa parte del dipartimento della Seine-Saint-Denis, che è uno dei dipartimenti più poveri dell'Île-de-France e che è abitato da una popolazione molto giovane, quindi 0-18 anni, e da una popolazione migrante molto forte, soprattutto di migrazione, di prima migrazione, quelli che in francese si chiamano prima arrivant, che sono quindi che arrivano da poco, che sono appena arrivati quindi in Francia, che poi forse si possono anche poi dopo installare da altre parti, e che però questo ospedale quindi e questa zona in generale permette di vedere un po' tutti anche le differenti, i diversi fiumi, diciamo diverse persone che vengono a seconda dei diversi conflitti, certo. Mondiali o quindi diversi flussi migratori, ecco, passano da qui, dalla Seine-Saint-Denis e da questo ospedale. Et concernant le service, donc c'est un service qui a été fondé à la fin des années 70 par un psychanalyste d'enfants qui s'appelle Serge Lebovici et qui s'est agrandi progressivement. Il a accueilli notamment dans les années 80 Toby Nathan, qui était professeur de psychologie, et qui est venu développer ici les dispositifs d'ethnopsychiatrie qu'il a inventés en se référant aux théories d'un penseur de l'ethnopsychiatrie, Georges Devreux, qui lui avait, n'avait jamais imaginé d'application en groupe comme Toby Nathan l'a fait. Et puis par la suite, Marie-Rose Moreau est arrivée, qui elle était une psychiatre d'enfants, et qui s'est beaucoup intéressé à la question des enfants de migrants et des relations familiales dans les familles migrantes. Elle est devenue chef de service ensuite. Moi, j'ai pris sa suite il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, et pendant tout ce temps, les migrations ont beaucoup changé. Quand Toby Nathan travaillait ici, c'était encore la fin de ce qu'on appelait en France les 30 Glorieuses. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était encore beaucoup l'immigration de travail, le regroupement familial, les naissances des enfants. C'était ça les enjeux. Et aujourd'hui, bien sûr, les migrations ont complètement changé avec beaucoup de parcours traumatiques, que ce soit avant de venir ou pendant le trajet ou ici. Et donc, on a développé cette orientation autour des psychotraumatismes progressivement, aussi parce que les besoins changeaient. Io ti lascio la parola, ma ringrazio immediatamente Thierry Bobet perché ha dato già, ci ha dato la possibilità di introdurre quella che spero poi saranno delle altre trasmissioni proprio centrate sull'etnopsichiatria. Ci voglio arrivare, ci arriverò, perché per questo è un luogo prezioso, non soltanto, ma l'etnopsichiatria nasce qui, in queste, tra queste pareti. Ed è una disciplina che ha attraversato varie volte le nostre parole, le nostre narrazioni, le nostre trasmissioni. Ti lascio la parola, grazie. Quindi Thierry Bobet ci ricordava che il servizio dove siamo adesso è nato negli anni 70 da uno psicanalista, psichiatra? Psichiatra e psicanalista. Ah, psichiatra e psicanalista dell'infanzia, Sergine Bovici. Serge Lebovici. Ah, Serge Lebovici, voilà. Serge Lebovici, che questo servizio poi dopo è stato ingrandito negli anni 80 quando ha accolto in particolare Toby Nathan, un altro che qui in qualche modo ha inventato l'etnopsichiatria facendo riferimento ai lavori di Georges Devereaux e soprattutto ha installato un servizio che non era stato immaginato da Georges Devereaux, quello dei gruppi. Dopo Toby Nathan c'è stato poi dopo Marie-Rose Moreau che anche lei ha lavorato sull'infanzia, era infatti iniziato a interessarsi ai bambini migranti e quindi ai figli dei migranti, alle relazioni familiari all'interno quindi di queste famiglie migranti. È stata quindi chef de service, a capo di questo servizio, fino a 15 anni fa, quando Thierry Bobet quindi ha preso la suite, quindi ha preso il suo posto. E nel frattempo però le migrazioni nel frattempo sono cambiate e quello che le migrazioni che ha visto, che si sono viste quindi nel periodo di Toby Nathan, durante quello che in Francia vengono chiamati la fine dei gloriosi 30, che noi non conosciamo. Noi abbiamo altri gloriosi o no. Certo. Sì. Dove appunto si migrava per lavoro, per quello raggruppamento familiare, quindi per ricongiungimento familiare, e una delle problematiche anche erano vedere queste nascite dei bambini, quindi qui sul territorio di queste famiglie che venivano per questi motivi quindi di migrazione. Ora invece la migrazione è cambiata, abbiamo dei percorsi molto traumatici, quindi che possono essere dei trauma che si sviluppano prima della migrazione, durante la migrazione o dopo la migrazione, quindi nel momento dell'accoglienza, e per questo motivo quindi è stato sviluppato in questo servizio tutto quindi la parte di psicotraumatologia per adattarsi anche a questi cambiamenti migratori. Quindi, grazie Thierry. Sì, Marie-Caroline. Je trouve passionnant la manière dont Thierry a... Bon, merci d'abord de votre invitation, c'est complètement passionnant, et c'est d'autant plus passionnant qu'on s'adresse donc, voilà, à l'Italie, si j'ai bien compris, donc ça c'est fantastique. Donc voilà, je trouve passionnant la manière dont Thierry a présenté le service, en insistant en fait sur deux aspects, outre bien sûr le soin, on est dans un lieu de soin, mais sur la question culturelle et sur la question politique en fait, d'emblée, hein, en présentant finalement un service qui était d'abord dans un contexte 1934, donc ouverture de cet hôpital, d'abord pour une population qui est voilà, bien définie, qui doit avoir sa place aussi dans un grand système d'ordre et de placement des minorités et des migrants, jusqu'à aujourd'hui finalement où on est dans effectivement le bassin migratoire français, hein, où le pourcentage des personnes étrangères et immigrantes est bien supérieur à la moyenne française nationale, hein. On est en pleine Seine-Saint-Denis. Et donc, cette problématique à nouveau rejoint des considérations politiques aujourd'hui et rejoint la question aussi de la culture et d'une France, bien sûr, aujourd'hui très cosmopolite, où vous avez une forte présence de beaucoup de cultures et de tout le vivre ensemble que ça suppose et de la compréhension lorsqu'il s'agit du soin. Donc, je trouve que ça, c'est très important à rappeler. Peut-être dire que longtemps à Vincennes, en tout cas dans les années 2000, moi quand je faisais ma psy, à l'époque je suis anthropologue de formation et j'ai fait ma psy plus tard, entre guillemets une formation en psy, à Vincennes était le lieu de l'ethnopsychiatrie, enfin c'était vraiment le lieu pour tout le monde, c'est là que c'était cristallisé, donc d'abord avec l'arrivée de Toby Nathan et les propositions de Toby Nathan qui ensuite est parti voilà, dans un autre, autour d'un autre lieu hospitalo-universitaire d'abord, mais d'abord la proposition de Toby Nathan, l'arrivée de Marie-Rose Moreau qui a repris ça avec une clinique de terrain ouverte aussi sur une jeune génération qui allait être une grande question, hein, pour ces primo-arrivants aussi, pour cette migration-là, hein. Voilà, ça a été quand même le lieu où il y a eu probablement, où s'est cristallisée toute une réflexion sur ce qu'on appelait encore, je crois, l'ethnopsychiatrie, qui est un terme qu'on emploie peut-être un peu moins en France directement. On parle vraiment aujourd'hui plus de psychiatrie transculturelle, par exemple. Il y a eu un changement un petit peu de réflexion autour des paradigmes qu'on employait, parce qu'aussi on a des approches qui sont de plus en plus, je crois, ouvertes voilà, à des formes de réflexion culturelle, et avec cette particularité ici, qu'il faut dire, attachée au lieu de soins, il y en a deux, c'est la présence de soignants qui sont eux-mêmes très ouverts à ces problématiques culturelles, souvent des soignants qui sont eux-mêmes originaires, par exemple, du Maghreb ou autre, et la deuxième chose, c'est la présence des langues. C'est rare à ce point qu'un hôpital, dans sa gestion hospitalière, soit suffisamment disponible, mais ça Thierry le dira mieux que le chef de service, mais à ce qu'il y ait des prises en charge où la langue est centrale dans la prise en charge de soins. Donc en fait on retrouve, je crois, dans ce lieu, pour le caler en termes anthropologiques, on retrouve des éléments essentiels à l'anthropologie en fait, et à la culture, la question de la langue. Grazie Marie-Caroline, passo la parola a Lucia. Non riesco a non dire che stanno veramente emergendo degli aspetti che hanno fatto parte anche della mia crescita professionale. Quando ero ragazza e studiavo all'Università di Roma, alla Sapienza, per me Avicenna era Toby Nathan, e quindi sono cresciuta da piccola dicendo, beh, io che voglio fare antropologia medica, che mi interessava alla migrazione, alla salute mentale, che avrò avuto 20 anni, 19 anni, dicevo, ma io devo andare lì. Poi la mia vita ha preso un'altra strada, ma è vero, è stato caratterizzato l'ospedale Avicenna da un'etnopsichiatria prima e dalla psichiatria trasculturale poi. Cioè, queste due figure mitiche che hanno segnato un certo tipo di anni, anche in Italia. E maintenant il y a une troisième figure mitica. Bah oui, en fait, adesso, ma infatti siamo qui perché proprio non abbiamo, diciamo, siamo partiti subito con il contesto perché ve l'ho chiesto io, ma qui diciamo Marie-Caroline Sagliot e Thierry Bobet abbiamo un'antropologa e una psicanalista, una terapeuta e una psichiatra, Thierry Bobet, che segue questa tradizione, insomma, cioè qui parliamo di capofila, ragazzi e ragazze, non stiamo parlando di briciole, eh? Cioè questa, voglio dire, questa trasmissione non è una qualsiasi trasmissione. Questa trasmissione segnerà un prima e un dopo, diciamocelo. Vai, ti lascio la parola. Grazie. Quindi riporto quello che diceva Marie-Caroline, che faceva riferimento quindi alla presentazione dell'ospedale di Avicenna fatta da Thierry Bobet, che diceva che era molto appassionata dal fatto che ci stiamo quindi indirizzando, stiamo parlando quindi all'Italia, quindi a delle persone che ci ascoltano quindi dall'Italia, e diceva come è interessante come Thierry Bobet ha presentato già questo ospedale, inizio già a confondermi tra l'italiano e il francese. Come già riportato, l'importanza della questione culturale e politica. Come infatti questo ospedale è stato costruito negli anni 30 e 40 per una popolazione ben definita, quindi rappresenta già come ci si rappresentava, come ci si relazionava quindi alle migrazioni e a determinate minorità culturali e di popolazioni minoritarie, e di come siamo quindi adesso in questo dipartimento che è la Seine-Saint-Denis, che rappresenta quindi un alto, un'alta percentuale di persone straniere e immigrate, una percentuale ben superiore alla media francese, e questa tematica quindi, quindi politica anche di questa presenza migratoria riporta quindi anche questa importanza della cultura di questa Francia cosmopolita, che pone quindi la questione di come vivere assieme in questa Francia cosmopolita. Parlava quindi della sua esperienza personale, Marie-Caroline quindi passa a Vicennes negli anni 2000, prima di tutto antropologa e poi si è formata solo in un secondo momento alla psicologia, ed è venuta qui proprio, vedeva già, cioè in quegli anni si vedeva Avicenne come il luogo dell'etnopsichiatria, grazie prima di tutto a Tomina Tan e poi all'arrivo di Marie Rose Moreau, che ha portato a una clinica, mi piaceva tanto questa idea di clinique de terrain, una clinica sì, del terrain, del campo, del campo, sì, del ecco, campo sì. Che si apre a una giovane popolazione che è quella dei bambini, e qui si cristallizzano quindi delle questioni legate alla cultura. Faceva anche un piccolo focus su linguistico, di come la parola etnopsichiatria sia poco utilizzata quindi in francese, adesso si utilizza più il concetto di psichiatria transculturale, e riassumeva quindi le due particolarità di questo ospedale: prima di tutto la presenza di professionisti aperte a queste questioni culturali, da una parte anche perché molti dei professionisti hanno delle origini anche altre della Francia, e anche l'importanza che si dà alla lingua. È raro infatti, questo lo posso anche dire io nella mia esperienza qui in diversi ospedali, quindi anche solo della Seine-Saint-Denis, che si dia così tanta importanza a una prise en charge, quindi a un prendersi cura delle persone, anche attraverso la lingua, quindi dando una grande importanza e centralità alla lingua. E qui quindi riprendiamo anche delle questioni importanti e essenziali per l'antropologia, certo, la cultura e la lingua. Grazie, stanno emergendo veramente degli aspetti incredibili. Io avrei tante domande da porre, ma cerco di limitarmi diciamo a un po' al quadro che ci siamo dati e date. E quindi in questo ambito così complesso, con una storia postcoloniale direi solida, importante, da una parte violenta, perché prima Thierry parlava di sorveglianza, quindi parliamo dalla sorveglianza sanitaria alla cura, che è già un passaggio importante, a un contenitore che porta un nome che ricorda ancora oggi le colonie, nel senso entrare in un ospedale, quando dicevo prima è bellissimo questo portale moresco, ma già con una doppia lingua, con un doppio significato che neanch'io conoscevo, quindi una traduzione che ci porta in due, che ci fa seguire due piste semantiche diverse, passando appunto dalla sorveglianza alla cura. È in questo dipartimento qui che dicevano Marie-Caroline e Thierry, il più povero, con la più alta concentrazione di persone migranti e di persone straniere, è qui che nasce, che è nata la psichiatria, e qui rifaccio un po' il punto, no? È qui che emigra questo concetto attraverso la psichiatria trasculturale, ed è proprio in questo dipartimento, siamo qui seduti nello studio di Thierry Bobet, che vengono prese in carico, vengono prese in cura, vengono curate le famiglie, le persone e soprattutto le famiglie migranti. Come lo fate questo lavoro qui? Che vuol dire prendersi cura delle persone e delle famiglie migranti? Che differenza c'è? Ovviamente sono provocatoria, perché poi è un lavoro che condividiamo, ma che differenza c'è fra prendersi cura di una persona e di una famiglia, di un nucleo familiare migrante, quindi lavorare anche con bambini e adolescenti, e invece lavorare con persone che non hanno mai fatto esperienza dell'esilio? Sì. Alors, je reprends un peu la... Elle faisait un peu un résumé de ce qu'on s'était dit auparavant. Donc, elle retournait à cette image postcoloniale de l'hôpital et de cette violence aussi. Vous parlez donc de la surveillance sanitaire, comment passer de la surveillance sanitaire aux soins. Et aussi de cette image aussi du portail mauresque colonial qui ramène donc aux colonies. Et donc, souligne que c'est ici, dans ces départements pauvres et avec une grande population migrante, qu'on développe tout ça. Et la question, c'est ça, comment vous faites, comment on prend soin de ces populations, de ces personnes, de ces familles, quelle différence, quel enjeu en fait à prendre soin de ces familles, avec de prendre soin des enfants, des adolescents, donc d'un public aussi jeune, et quelle différence avec des personnes qui n'ont pas vécu l'exil. Alors, l'enjeu, je pense, c'est... Comment faire pour les soigner aussi bien que les autres. Voilà. Et tout part de là, en fait. Et c'est cette question-là qui nous oblige, finalement, à penser des dispositifs, à mettre en place des adaptations. Voilà, c'est pas parce que les migrants, parce qu'ils sont migrants, auraient besoin d'un traitement particulier. C'est parce que dans le système médical français, je pense que c'est partout pareil, si on ne corrige pas les inégalités de traitement systémique qui découle des différences culturelles, des différences raciales, des préjugés, des différences économiques, et on est amené à moins bien traiter. Ces patients reçoivent des moins bons soins. Je donne quelques exemples, mais qui sont basiques. Hein. Par exemple, les incompréhensions diagnostiques et des erreurs diagnostiques. Vous savez qu'en psychiatrie, contrairement à aux maladies infectieuses, on n'a pas de marqueur biologique. Des maladies. Donc le diagnostic, on le fait sur ce qu'on observe et sur ce que les patients déclarent. Et donc les patients ont une expérience qu'ils interprètent déjà et puis ils nous en communiquent une partie. Et c'est à partir de ça qu'on doit travailler. Donc on voit bien comment la culture joue à tous les niveaux. Et si on applique des grilles standardisées en Occident, pour entrer en relation, faire des diagnostics, etc., on commet des erreurs qui sont très préjudiciables aux patients. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, un autre point, pour entrer en communication avec les familles et faire alliance avec les familles, là aussi, ça nécessite qu'on se décentre un peu de nos façons de faire habituelles. Il y a la question de la langue, que Marie-Caroline a évoquée, qui est centrale. C'est effrayant de se dire que dans beaucoup d'endroits, elle n'est pas prise en compte du tout, par exemple. Donc voilà, comment on doit s'adapter pour offrir aussi bien comme soin à ces patients qu'aux autres. Je pense que c'est ça la question initiale. Et c'est d'ailleurs pour ça que Serge Lebovici avait fait venir Toby Nathan dans le service. Parce qu'il avait l'impression, malgré son immense science, qu'avec les familles migrantes, il ratait quelque chose. Donc c'est vraiment un souci qui est à l'origine de la création finalement de cette activité. Alors, je trouve passionnant à nouveau la manière dont on répond Thierry Bobet, en passant effectivement pour qu'est-ce que ça vient faire comme défi dans un soin, qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que aussi la violence systémique hein, aujourd'hui autour de populations pauvres, qui quelquefois n'ont pas de papier. Il y a tout un enjeu aussi autour là du statut de personne. Donc qui sont prises en charge ici et qui doivent être prises en charge comme les autres, avec une qualité de soins comme les autres, et donc ça oblige effectivement à mettre en place de nouvelles choses, puisqu'on est sur là des questions aussi d'interprétation culturelle, de lien avec les patients, etc. Mais j'irai encore un marqueur plus loin autour de cette question, enfin un pas plus loin, autour de cette question politique dont on est parti. Il y a le fait qu'on est un hôpital de droit commun. Et ça nous, et c'est très important à mon avis par rapport au grand panorama aujourd'hui du soin culturel pour les migrants en France, qui sont en général pris en charge par des associations, qui en fait pallient le manque de structure. Donc ce que je trouve important à redire ici, enfin à savoir, c'est que l'hôpital est donc un hôpital public. On est dans un service public et qui pour autant doit développer une clinique très spécifique, très particulière, très adaptée avec son environnement. On est déjà dans l'anthropologie, en fait, là. Et avec une capacité, justement, à se faire bouger par son propre objet, ce que je trouve aussi assez, enfin très rare. C'est-à-dire qu'un hôpital clinique, un hôpital aujourd'hui, un service de psychiatrie, a les limites qu'on sait, enfin qu'elles soient budgétaires, organisationnelles, en termes de ressources humaines, etc., mais qui là va trouver avec les moyens qu'il a des formes de réflexion par rapport à son sujet. Et de l'autre côté, très vite, puisque tu posais les questions, Myriam, de la famille et de l'individu, en fait, je me disais, une des particularités qu'on a aussi, c'est que nous avons, lorsqu'on parle de personnes primo-arrivantes, de ces personnes étrangères, etc., nous voyons arriver des personnes qui... Nous, dans ce service, notamment parce qu'il y a on est aussi un centre de référence de psychotraumatisme, hein, donc autour des questions de violence, c'est pas seulement le soin en général, c'est la question de la violence qui est une de nos spécialités. Voilà. Je pense qu'on a... On a continuellement à négocier, à réfléchir à ce qui fait violence pour ces personnes. Donc on l'a redit, Thierry l'a redit, hein, ce qui a fait violence au pays pour qu'elles partent, ce qui fait violence souvent sur la trajectoire, et ce qui fait violence ici, dans cette violence systémique autour des droits limités de ces personnes, dont l'accès à la santé, qui est un droit qui aujourd'hui est très problématique pour une partie de ces personnes, et puisque nous, voilà, on peut offrir comme ancrage culturel, politique, de soins pour répondre à ces personnes. On ira peut-être un peu plus loin là, après, mais peut-être qu'à un moment on arrivera à cette question très particulière. Nous avons des personnes pour lesquelles, culturellement, anthropologiquement, la question de la communauté et la question des loyautés par rapport à la communauté est extrêmement forte. Et c'est quelque chose que nous n'avons presque plus, nous, dans notre pays, en ce sens, j'ai envie de dire. Et donc, on est continuellement, à réfléchir aussi avec des personnes, parce que moi, je considère que quand on est soignant, on soigne pas des malades, des maladies, on soigne des personnes. Et donc, on est à réfléchir avec des personnes qui sont dans des modalités d'anthropologie, des liens de filiation, des liens familiaux, des liens religieux, qui sont très présents aujourd'hui en France, qui nous apprennent aussi beaucoup sur nos propres, finalement, désinvestissements, j'ai envie de dire, d'un certain nombre de liens. Et donc, ici, dans un service hospitalier de soins, eh bien, toutes ces questions se posent. Et on est vraiment là au cœur de questions à la fois culturelles, à la fois de santé, de soins, et à la fois très politiques, très politiques. L'immigration, aujourd'hui, c'est une très grande question politique. Et pour la cité, quoi. Grazie tantissimo a tutte e due. Prima di dare la parola a Lucia, quindi io tengo la suspense e facciamo una piccola pausa musicale e torniamo subito. Thank you. Bentornate e bentornati ad Antropologica, la prima trasmissione italiana di antropologia. Siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa e siamo rimasti appesi ad appesi con la traduzione di Lucia Gentile per rinarrare e tradurre i contenuti preziosi che sono stati veicolati da Thierry Bobet e da Marie-Caroline Sagliot. Quindi la domanda di Miriam era come fare a prendersi cura quindi di queste famiglie, e la bellissima risposta di Thierry Bobet è stata quella di dire la vera problematica è come fare a curare bene queste persone come tutti gli altri. E trovo questo magnifico. Quindi quello che ha sottolineato è come la difficoltà quindi di adattare, di creare anche nuovi dispositivi per poter curare bene queste popolazioni migranti, che non è che curiamo dei migranti perché sono particolari, ma che hanno quindi delle problematiche particolari rispetto agli altri, ma più che altro perché il sistema medico francese non si può applicare allo stesso modo a queste popolazioni. Bisogna quindi correggere le diseguaglianze di questo sistema, soprattutto per di queste differenze legate alla cultura, alla razza, ai pregiudizi, alle differenze economiche. E quindi ricorreggere questo fatto che quindi queste popolazioni migranti ricevono delle cure che sono meno buone in comparazione a tutte le altre, alle altre popolazioni diciamo francesi locali, e faceva dei riferimenti soprattutto per quanto riguarda per esempio degli esempi sulle incomprensioni diagnostiche. La problematica della psicologia è che non ci sono dei marker biologiche, biologici. E lui, scusa, aggiungo questo, lui giustamente diceva non ci sono come nell'infettivologia, perché prima di iniziare la trasmissione parlavamo di infettivologia, certo. E quindi giustamente riprende il filo del nostro discorso precedente. E dicevo che invece la psicologia si basa sull'osservazione dei pazienti e su quello che i pazienti dichiarano. Quello che i pazienti dichiarano è già un'interpretazione. Sì, mi sono persa. Ok, no, giusto, scusate, tutti i miei appunti. Fantastica, grazie. Quindi che è già un'interpretazione in precedenza, quindi dobbiamo cercare di arrivare anche a comprendere questa interpretazione, dove quindi c'è tutta anche una problematica, una possibilità di errore e di interpretazione diagnostica. Marie-Caroline quindi poi dopo ha iniziato a parlare di come era sempre interessante vedere come quindi Thierry Bobet presentava questa problematica e riprendeva quindi la particolarità quindi di come prendere in carico quindi questa cultura, e soprattutto nel fatto che viviamo in questa violenza sistemica quindi che troviamo nel sistema diciamo medico, e questo obbliga quindi questo ospedale in particolare a creare delle nuove cose, dei nuovi sistemi per poter ben prendere in carico queste popolazioni. Sottolineava che questo quindi è un ospedale del diritto comune e che quindi cioè un ospedale pubblico, è veramente importante questa sottolineatura, perché voglio dire tutto questo avviene, cioè questa ricerca di strumenti, quindi queste riflessioni intorno alla presa in cura non avvengono in un ospedale, in un contesto privato, ma avvengono in un luogo pubblico, e questo è importante anche per tutto quello che sta accadendo, che coinvolge anche l'Italia, insomma questo depauperamento costante e attacco costante del servizio sanitario pubblico. Ecco, questo grazie per averlo detto, perché credo sia veramente al centro di una questione importante per tutte e tutti noi, non solo in Francia. E soprattutto in uno stato qui in Francia dove in altri posti questi prese in carico culturale e soprattutto prese in carico da associazioni. Quindi certo. Non siamo nello stesso contesto, qui invece abbiamo la possibilità di svilupparlo all'interno di un ospedale pubblico, e abbiamo quindi hanno la possibilità, quello che cercano di fare è quindi di sviluppare qualcosa che invece manca. Uh, E qui ritornavamo quindi alla questione antropologica di come in qualche modo tutta questa situazione quindi si rispecchia è già antropologica, certo, di per sé, di come quindi questo ospedale ha dovuto adattarsi a un oggetto che è nato appunto da dove si situava, quindi da questo luogo, da questa popolazione che gli girava attorno, e si è dovuto quindi adattare a poter quindi sviluppare alcuni delle cure per seguire bene questa popolazione. No, non mi ricordo, ho un po' perso. Ah sì, l'altra questione delle alliance familiales. Oui, en fait, on reçoit des personnes qui ont des cadres de famille, de religion, etc., qui vont beaucoup nous questionner, et donc ça bouleverse beaucoup nos pratiques et ça les adapte. Et là, je crois qu'on peut rentrer sur les questions anthropologiques. Quindi riprendeva, mi ero un po' persa nei miei appunti perché ho pagine e pagine scritte e quindi riprendeva Marie Caroline anche la questione delle alleanze, quindi familiare, di come quindi abbiamo a che fare con delle popolazioni che hanno un forte legame di lealtà e con lealtà e legami familiari, religiosi, di origine, diciamo, che prendono anche in questione, che questionano gli stessi professionisti e che quindi fanno, poteva essere quindi questa una questione che poteva aprirci quindi più in generale sulla questione dell'antropologia. Beh certo, perché in realtà pensare che dei terapeuti ripensino talmente tanto gli strumenti fino a ripensare se stessi, per rimettere in discussione il proprio operato a fronte dei soggetti di studio, dei soggetti di cura, in questo caso non di studio, scusate, beh, mi sembra proprio importante, soprattutto perché, come diceva Marie-Caroline, avviene in un contesto che è l'equivalente del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E proprio seguendo queste piste che ci avete dato, io vi chiederei, poi conoscendovi e sapendo qual è il vostro bagaglio esperienziale, di competenze, conoscenze, come l'antropologia, per te che sei antropologa, Marie Caroline, e per te che hai fatto della psichiatria trasculturale la tua vita, il tuo percorso, cioè le tue pratiche, quali sono, cioè che cosa vi ha dato questa, cioè che cosa vi dà l'antropologia quotidianamente per il lavoro? Cioè l'antropologia è buona per quello che fate, è buona per lavorare o è buona soltanto da pensare? Donc là, Myriam, elle pose cette question par rapport à l'anthropologie. Comment l'anthropologie, vous comme psychologue, et vous que vous avez fait de la psychiatrie transculturelle votre vie, vos pratiques, qu'est-ce que vous donne en fait l'anthropologie? Est-ce qu'elle vous donne quelque chose de bon pour vos pratiques quotidiennes ou elle est bon seulement à penser? Je ne sais pas si... C'est un peu le jeu. Ouais. Non, mais, enfin, je vais laisser Thierry répondre, mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, bien sûr, c'est que la visée de l'anthropologue, elle est heuristique, elle est une connaissance sur les cultures de l'autre. La visée du soignant, elle est pratique, hein. Elle est thérapeutique. On veut soigner quelqu'un. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes visées. Et dans une consultation, on n'a pas du tout la même visée. Ça, c'est une première partie de la réponse. Mais je laisse peut-être Thierry, je continue du coup. Et donc à partir de là, qui est très important, et puis qui avait été posé dans des termes un petit peu différents, par exemple par Georges Devreux et son complémentarisme, hein, en disant que voilà, on pouvait avoir un regard avec en posant la question culturelle et puis avoir la question du soin différemment. Enfin vraiment voilà, il est quand il a reposé la question de l'ethnopsychiatrie, mais l'idée, c'est effectivement, dans la consultation, on est d'abord un soignant, et ce qui doit nous porter, c'est comment on, quand on est psychologue comme moi, clinicienne, comment on peut amener un patient qui... moi, j'ai des patients qui ont vécu des traumas très difficiles, très complexes, et qui arrivent ici en général avec des syndromes traumatiques, de dépression, etc., avec une très forte histoire culturelle derrière. Et donc la question de où arrive l'anthropologie, en fait, elle arrive dans les modalités d'écoute. Mais elle n'arrive jamais, bien sûr, comme finalité. C'est-à-dire, je ne suis pas dans une démarche anthropologique avec les patients. Je suis en revanche dans une démarche de clinicienne. Mais l'anthropologie l'écoute culturelle de ce que va pouvoir dire le patient de son propre parcours, de ce qu'il vit, de ses propres difficultés, la manière dont il va qualifier tout ça, et c'est là que la langue est si importante. La manière dont lui va voir des enchaînements, des causes, etc. La manière dont lui-même va se positionner comme sujet par rapport en général à une communauté ou une collectivité plus ou moins violente. Ce que va engager ces violences dans sa vie familiale, dans sa vie religieuse, etc. Tout ça, c'est absolument essentiel pour moi pour pouvoir avancer avec le patient dans une forme thérapeutique, on va dire, de réanimation. De l'agency, alors ça y est, un mot anglais maintenant, du patient, dans une possibilité de mettre en place un dispositif de soins. À un moment, il peut y avoir d'ailleurs dans ce dispositif la question de la psychiatrie qui n'est pas du tout évidente pour certains de nos patients. D'ailleurs, prendre des médicaments, commencer, enfin voilà, on va dans un certain paradigme de soins que certains patients culturellement ne vont pas accepter si facilement. Et là, pour donner une vignette clinique, qu'est-ce que c'est compliqué de faire hospitaliser en psychiatrie un patient, un de nos patients qui en a besoin. Et en général, ils trouvent en quelques minutes un motif pour en sortir. Et très souvent, d'ailleurs, c'est l'alimentation qui est le premier motif de « non, c'est pas possible, ici, c'est pas possible, ça va pas être possible, en fait. Voilà. » Donc, on pourrait raconter un peu plus si on avait le temps, et c'est tout à fait passionnant. Mais donc, et puis, cette question de évidemment, quand il y a d'aussi forts traumas, l'idée de perdre le contrôle sur soi-même, l'idée d'être aux mains, entre guillemets, du médicament, tout ça, ou la camisole médicamenteuse, enfin, il y a beaucoup de choses autour de la psychiatrie et autour de la représentation de la folie qui est tellement forte chez nos patients. Pourquoi ? Parce que les paradigmes culturels sur qu'est-ce que c'est qu'une maladie mentale dans beaucoup des pays, dans la plupart des pays dont on reçoit les patients, est quelque chose qui est de l'ordre de la... vraiment de la peur, hein. Aller mal psychiquement, ça veut dire être fou et ça veut dire être en prise avec des forces extérieures et non pas internes comme chez nous, qui sont violentes et qui terrassent aussi pas seulement le sujet mais en général sa famille. Une personne qui va mal dans une famille, c'est toute sa famille qui est exclue, hein. Donc là, il y a beaucoup de choses que nous, dans un service comme celui-là, on n'est pas censé maîtriser, mais que un regard un peu plus anthropologique qui permet en fait de saisir pour expliquer en fait pourquoi le patient est si mal. Et en fait, cette maladie au sens fort, ce mal du patient, c'est vrai que la perspective culturelle permet de donner plus rapidement, hein, un certain nombre de mots, de clés sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour réfléchir avec le patient, mais quels sont les dispositifs thérapeutiques par lesquels on va sortir, ou en fait sortir avec lui de ce qui caractérise en fait le trauma qu'on voit ici, hein, puisqu'on a des patients qui sont très souvent dans des situations de trauma, c'est-à-dire des moments où là il n'y a plus de système de pensée possible parce qu'il y a eu trop de violence. Donc c'est vrai que ça permet d'entrer en fait dans le soin avec un regard qui est tout de suite avec des étiologies culturelles qui permettent d'avancer dans le soin, dans la prise en charge du soin, beaucoup plus fortement. Grazie Marie-Caroline. Je peux traduire parce que sinon je vais oublier. Oui. Allora, quindi Marie-Caroline, quindi, prima di tutto ricorda che lo scopo dell'antropologo è euristico, invece lo scopo del medico, di quello che cura, dei professionisti della salute, è invece quello pratico. Quindi già qui dobbiamo sottolineare una differenza di scopo. E questo lo ricordava anche attraverso l'approccio quindi della psichiatria di Georges Devereaux, del complementarismo di Georges Devereaux tra la cultura e i suoni. Ci torneremo su questo Georges Devereaux in un'altra puntata, perché ora non abbiamo tempo di fare tutta una serie di approfondimenti, perché Marie-Caroline giustamente ha fatto emergere una serie di concetti, quale il complementarismo, l'agency, l'agentività, quindi ci torneremo su questo, prometto. Quello che sottolineava è che appunto nella consultazione lei è prima di tutto, lei come comunque in questo approccio è un soignant, quindi è un, come si può dire, soignant? Una sarebbe curante, ma io direi una clinica. Sì, una clinica. Perfetto. E quindi nella sua esperienza quindi incontra molti pazienti con dei trauma molto complessi, che hanno una forte storia culturale dietro, e quello che gli dà, quindi il suo scopo prima di tutto è curare quindi i propri pazienti, quello che gli dà l'antropologia è un modo di ascoltare le persone, non è una finalità in sé, la sua finalità è quella clinica, quindi di curare le persone, quindi non è dentro una démarche anthropologique, quindi non è soltanto in un approccio, in un percorso. In un percorso anche antropologico, ma in un percorso clinico. Quello che gli dà l'antropologia è quindi un ascolto della cultura, quindi riuscire a capire il tipo di vita, come la persona qualifica, quindi qui l'importanza anche della lingua, le cause che vede, quindi tutta un'idea di rappresentazioni, quindi possiamo dire, come si posiziona come soggetto, soprattutto per quanto riguarda la collettività, quindi si parla di relazioni familiari, relazioni religiose, e quindi come l'antropologia gli permette di avere delle chiavi di lettura, di avanzare quindi nel percorso clinico quindi del paziente molto più velocemente che se non avesse quindi questi riferimenti culturali. E quindi permettere quindi al paziente, qui ritorniamo con l'agency, quindi di avere un'agency, di permettere quindi di costruire quindi questo percorso di cura. E ricorda anche soprattutto come è molto difficile qui in Francia di ospitalizzare, quindi di ricoverare, grazie mille, sia molto difficile ricoverare quindi dei pazienti migranti quindi in ospedale, e come cercano di uscire quindi abbastanza velocemente, una delle prime quindi problematiche è quella dell'alimentazione. Certo, una barriera proprio di salute, sì. Da quello che diceva Marie-Caroline, no? Proprio... Sì, che è difficile, sì. Proprio farli entrare, certo. Quindi farli ricoverare. Ricoverare perché e anche farli restare, e questo quindi la riporta soprattutto quindi a una rappresentazione quindi culturale della follia, della salute mentale, dove in molte quindi culture quindi siamo proprio più in un'idea di paura, essere presi quindi da queste forze esteriori, quindi non riuscire a gestire quindi queste forze esteriori e che possono essere molto violenti. E soprattutto ricordava che in molte culture quando una persona va male, in verità non è solo l'individuo a star male, ma è tutta anche poi la famiglia che sta male. E quindi lo sguardo antropologico permette di spiegare, cioè di comprendere prima di tutto certo. questi punti di vista e di aiutare quindi più velocemente il paziente a uscire quindi dal trauma, e permette quindi di avanzare più velocemente. Mi sembra, grazie, veramente molto interessante anche questo passare dall'individuo alla comunità, questo pensare che la malattia non è mai solo un evento individuale, ma un evento che investe la propria collettività. E questo è qualcosa, Marie-Caroline parlava di distanze esterne e distanze interne, questo è qualcosa che veramente crea una differenza importante, che è sempre da tenere al centro nei dispositivi di cura di questo tipo. Thierry. Che idea, che stiamo facendo? La questione è, cosa ci fai con l'antropologia? Tu che sei una psichiatra trasculturale, come ti è utile questa istanza, questo oggetto antropologico? Alors, moi, contrairement à Marie-Caroline, je ne suis pas anthropologue. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle fait pour être à la fois anthropologue et à la fois clinicienne. J'ai expliqué que je ne l'étais pas au début. La magie. C'est tout un sujet en soi, parce que je me rappelle, de discussions enflammées avec un psy qui était en même temps anthropologue critique. Et qui donc critiquait ce que je disais. Et je lui disais, mais en tant que psy, comment tu fais? Et il me répondait, oui, mais là, je ne suis pas psy. Donc voilà, je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'être anthropologue et psy, et soignant, mais Marie-Caroline, manifestement, y arrive très bien. Alors moi, donc, je ne suis pas anthropologue, ça veut dire que je n'ai pas j'ai pas la formation académique en anthropologie, j'essaie de, de fréquenter des anthropologues, de travailler avec eux. J'essaye de lire de l'anthropologie et de me former un minimum. Mais bien sûr, je n'aurai jamais le niveau de connaissance de ce qui fait l'essence d'une discipline, c'est-à-dire, enfin, pour moi, l'historique des débats qui a eu, des positions antagonistes, etc. Enfin, voilà. Tout ça, je n'ai pas la maîtrise de tout ça. Néanmoins, je pense que c'est important que nous, les cliniciens, on ne voit pas l'anthropologie comme une étude du folklore et un catalogue de curiosités exotiques, etc. C'est ça un peu le danger. Bon, j'espère m'en être prémuni. Alors, moi, ce qui me concerne, et de ma place de clinicien, je dirais que l'anthropologie a changé ma vie, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive à réfléchir aux implications de la notion de culture chez nous-mêmes d'abord, hein, je dirais, et chez le patient qu'on reçoit, à tous les niveaux de la relation, de l'expérience, de la communication, voilà, de l'environnement, enfin, ça change totalement, il me semble, la manière de faire de la psychiatrie, même en intraculturel d'ailleurs après. Donc ça, c'est vraiment la question du passage par la langue, du statut qu'on donne à l'interprète, du travail avec les interprètes comme presque des co-thérapeutes, ou en tout cas des médiateurs, enfin voilà. Ça, c'est d'un apport infini qui permet de changer complètement la façon dont on travaille, il me semble, en tant que psychiatre. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Grazie, Angela. Quindi Thierry Bovet afferma prima di tutto che lui non è un antropologo, al contrario di Marie-Caroline, infatti diceva che non sa come fa Marie-Caroline a essere tutte e due. E che questo già è una problematica in sé, perché si ricorda anche le discussioni che ha avuto con uno psicologo e antropologo critico, che quindi criticava quello che faceva Thierry Bovet, e Thierry Bovet rispondeva dicendo: ma come fai a essere uno psicologo? E lui rispondeva dicendo: ma ora non sono uno psicologo. Quindi in qualche modo cambiava casquette, cambiava, certo, in qualche modo, diciamo, un po' di scissione là ci stava. Di sicuro, sì. E quindi diceva che Marie-Caroline di sicuro arriva bene a gestire queste due caschette. Come si può dire caschette? Io direi proprio incarnare, io perlomeno la dico così, no? Incarnare la doppia professionalità. Perché è proprio, bello, comunque è molto pesante, cioè veramente proprio il senso di incorporarle le due professionalità. Perché sono poi due professionalità dense, insomma. Sì. E quindi Thierry Bovet diceva che non si è mai formato all'antropologia, ma lui lavora con antropologi e ha contatto con antropologi e ha cercato in modo minimo comunque di formarsi con antropologi, ma comunque non è a conoscenza di tutti i dibattiti dell'antropologia, ma pensa che è molto importante per i clinician, quindi per i clinici. Grazie, che non vedano quindi l'antropologia soltanto come delle persone che fanno del folklore, e che invece a lui l'antropologia, quello che può dire, è che gli ha cambiato la vita, soprattutto sviluppare quindi questa, la nozione stessa di cultura, prima di tutto su di noi in quanto non soggetti, cioè partire proprio da noi, cioè sì, cioè riflettere sulla nostra cultura prima di ragionare su quella degli altri. Questo assolutamente mi sembra proprio fondamentale, sì. Assolutamente, e che questo quindi permette anche di adesso io aggiungo, relativizzare, certo, anche comunque, certo, quello, e di comprendere meglio anche quello che fanno le persone. Certo. E parlava soprattutto anche dell'importanza quindi di questo passaggio alla lingua, qui dello status dell'interprete, che qui è proprio considerato come un co-terapeuta, quindi un co-terapeuta, grazie. Parole grazie, basiche a volte. E di come cambia quindi proprio il lavoro dello psicologo, dello psichiatra, quando incorpora quindi questa visione anche più alta, prendendo in considerazione la cultura, gli interpreti, la lingua e tutto il resto. Grazie. Se posso aggiungere un mot, peut-être je trouve que l'anthropologie contemporaine, enfin ces dernières décennies en tout cas, nous instruit aussi beaucoup sur la question des rapports de domination, des différents rapports de domination. Et ça, c'est un truc que les psychiatres ont du mal à voir souvent, ce qui se joue dans le soin autour de cette question-là. Donc ça, c'est aussi très, très éclairant et très utile pour nous. Et alors, prima que tu traduca, visto che Thierry Bobet, lo sto tenendo qui da moltissimo tempo, da molto prima che iniziassimo a registrare e deve andare via, io chiederei subito a Thierry, e allora, l'antropologo non è un lavoro per... Alors, j'ai traduit, vous qu'en fait on vous a tenu ici beaucoup longtemps et que vous avez après quelque chose à faire, on voudrait savoir, alors l'anthropologie n'est pas un travail pour... Moi. je resterai sympathisant et passionné, mais je ne suis pas anthropologue. Merci beaucoup. Andiamo un attimo in pausa e torniamo subito per la traduzione. Eccoci tornati ad Antropologica, la prima trasmissione italiana di antropologia. Ricordiamo che siamo a Parigi, siamo in compagnia di Marie-Caroline Sagliot e di Thierry Bobet, che purtroppo è appena andato via, ma ci ha lasciato delle consegne importanti. Infatti Lucia Gentile, che ci sta aiutando con la traduzione, e lascio a lei la parola in effetti, perché siamo rimasti proprio in sospeso con tutti i contenuti e le narrazioni di Thierry. Sì, Thierry, infatti, prima di andare via, ha aggiunto anche che uno degli apporti importanti dell'antropologia contemporanea all'antropologia attuale sono tutte le riflessioni per quanto riguarda i rapporti di dominazione, che a volte lo psichiatra fa un po' fatica a vedere e prendere in consultazione, che invece comunque si sono presenti nella consultazione, tutta la relazione con il paziente. E poi dopo, appunto, prima di andare, visto che aveva altri appuntamenti, gli abbiamo, Miriam, certo, le ha posto la fatidica domanda, quindi... L'antropologo non è un lavoro per... Beh. E lui che dice per me? Quindi sì, ha sottolineato che lui simpatizza per gli antropologi, ma non è un antropologo. Ha intenzione di cambiare lavoro. Mannaggia, non l'abbiamo fatto. Continua a essere circondato da, certo, antropologi. Certo, da antropologi. E quindi invece Marie-Caroline Sagliot. Marie-Caroline, e allora a te adesso questa domanda. L'antropologo, tu sei un'antropologa, quindi l'antropologa non è un lavoro per... Pour les peureux. Fantastico. Quindi l'antropologo, sì, non è un lavoro per i paurosi. I paurosi. Sì. Ed è così. Il faut aimer le risque. Il faut aimer découvrir. Il faut aimer l'autre. Il faut aimer. Ouais, le risque de se frotter à des réalités autres. Et il faut aimer le désordre que ça va supposer. Oui. Merci beaucoup. Je te laisse. Bellissimo. Sì. Ouais. Quindi bisogna amare il rischio, amare scoprire, amare l'altro, quindi poter rischiare di, come dire, di scontrarsi con le realtà degli altri, e il rischio del disordine. Adoro anche questa anche idea io, di disordine. Sì. E vorrei dire a Marie-Caroline, approfitto di te, che uno dei primi ricordi che ho di te, a cui tengo molto, è proprio questo. Una volta mi hai detto Miriam, rischiatela, e io lì sono rimasta attaccata alla sedia e ho detto ok, lo faccio. T'as compris, oui, t'as compris, génial, oui. Superbe, beau souvenir. E me la porta ancora con me questa cosa, quindi grazie. Merci, grazie. Miriam, no, c'était magnifique. A toi, a vous, vraiment, je suis hyper émue. Merci beaucoup, c'était vraiment une belle expérience. Emozionata, sì, grazie, grazie tante. Ci vediamo ad Antropologica fra un mese esatto. Ciao a tutte e a tutte, arrivederci compagni e compagni.